battuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Non è solo la giornata di San Patrizio, in questi giorni si celebra qui in Italia anche la giornata della legalità, che anche questa si sta diffondendo in altre nazioni europee, con esperienze belle come quella che vi vogliamo raccontare oggi, che magari non c'entra niente direttamente con la giornata della legalità, però si parla di made in social, si parla di quei prodotti che nascono all'interno delle carceri italiane, che nascono utilizzando per esempio terreni confiscati alla mafia, che nascono dal lavoro di cooperative sociali. E beh, questi prodotti da oggi a Parigi hanno un luogo dove possono essere acquistati, un luogo dove non si fa solo un altro mercato, ma dove si fa anche educazione alla legalità. E con noi c'è Caterina Avanza, che è una delle protagoniste di questa bella esperienza. Caterina, come mai che hai scelto questa canzone per essere introdotta? Ma allora, innanzitutto ciao. Ciao, buongiorno. Con Ludovica Guerreri, che è l'altra persona con la quale abbiamo fondato Eticando, abbiamo scelto la pappa al pomodoro perché qui da Eticando facciamo la prima pappa al pomodoro antimafia, fatta con la passata di Libera Terra, che con i pomodori corleonesi sottratti alle mafie. Ok, quindi insomma mi sembra più che significativa. Eticando è il nome, come lo definite? Negozio? Forse non è Eticando sufficiente. Lo definiamo concept store. Mm-hmm. L'idea era proprio di creare un luogo che gira attorno a un concetto, che è quello del ritorno alla legalità. Quindi tutte le cooperative sociali che in Italia si battono per cambiare le cose e che non pensano che ci sia una fatalità che impedisce di cambiare, diciamo tutte quelle che lottano contro una logica della rassegnazione. Mm-hmm. Quindi insomma uno spazio che immagino voglia diventare proprio un punto di riferimento per chi mette l'educazione alla legalità e non solo come dei propri principi. E come è stata accolta dalle persone con cui parlate, con cui vi siete interfacciate, questa cosa, nel senso, c'è consapevolezza del cosa voglia dire educare alla legalità? E ci sono esperienze simili lì in Francia o state un po' così, sembra quasi una provocazione la vostra? No, devo dire che effettivamente è un po' una prima esperienza, quindi a nostra conoscenza non esiste un altro posto come questo, e parlare di legalità in Francia è un po' complicato perché effettivamente i francesi non pensano di avere un problema sulla legalità. Qui spesso si dice che come la nube di Chernobyl si è fermata alle frontiere, così anche la mafia si ferma alla frontiera. Le Alpi sono una barriera molto potente, a quanto pare. Ho capito. E invece sì, noi siamo convinti che questa cosa non sia vera, e in collaborazione con Libera Francia e con Flair, in particolare con Fabrice Rizzoli, che è una persona che si batte molto per far passare il messaggio che anche qui c'è un problema con il crimine organizzato. E infatti è interessante parlarne oggi perché noi abbiamo organizzato l'anno scorso, il 4 aprile, una giornata, la prima giornata della memoria in Francia, includendo anche delle vittime francesi del crimine organizzato, perché anche qui ci sono delle vittime da ricordare. Mm-hmm. Ecco, e quando appunto dite che i vostri prodotti per esempio nascono da terre confiscate alla mafia, capiscono il significato? Sì, questo lo capiscono, certo, a volte bisogna spiegare che in Italia c'è una legge che lo permette mentre qui non c'è, e infatti l'idea di sensibilizzare il pubblico e speriamo anche la stampa al vantaggio che può avere la confisca dei beni al crimine organizzato, che permette di creare asili, licei e ovviamente anche le terre, quindi di reinserire nella società persone che hanno avuto dei percorsi o di microcriminalità o di disoccupazione, e quindi di cambiare un territorio come quello del sud Italia. Speriamo che questo messaggio passi. Comunque l'interesse c'è, molto. Siamo in radio, quindi ti chiedo un compito un po' arduo. Facci vedere il tuo concept store. Cosa c'è oggi entrando? Come l'avete allestito? Allora, entrando, già sulla destra abbiamo voluto riassumere la mission di questo concept store con una frase che dice: chi non può vedere un altro mondo è cieco. qui si trova lo stile e il coraggio dei giovani che lavorano sulle terre confiscate alla mafia e di tutte le cooperative sociali italiane. Quindi già una prima frase perché la gente si renda conto di dov'è. Dopodiché sì, ci sono tutti gli scaffali pieni di prodotti, dove ci sono i prodotti di Libera Terra, del consorzio Goel, quindi dell'associazione antimafia, ci sono i prodotti fatti dai detenuti, come i dolci di Giotto, Dolce Libertà, questi che hanno vinto molti premi, quindi sono prodotti di grande qualità. E poi ci sono tutti i prodotti made in jail, quindi le magliette di made in jail, le borse delle cooperative Dora d'Aria, e il nostro concept è tutto arredato dai mobili fatti dalla cooperativa Ferro e Fuoco del carcere di Torino, che fanno dei mobili appunto in ferro e legno bellissimi. Mm-hmm. Quindi anche l'arredamento è fatto dai progetti dai detenuti certo. di Torino. E www.eticando.com il sito, vuoi darci anche l'indirizzo casomai qualcuno sì. passasse? Allora siamo al 6 rue de la Grange aux Belles, nel decimo quartiere, vicino al canale Saint-Martin. Perfetto, grazie davvero, in bocca al lupo a te, alla tua collega, presto. Insomma, e a tutti quelli che avranno benefici anche culturali da questa bella attività. Ciao, ciao, ciao. Ciao, a presto.